avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un. Per voi com'è stato il 2010? Per me è una chiavica, dico la sincera verità. Lo dico con sollievo, lo dico con leggerezza, lo dico con divertimento. Un anno assolutamente da dimenticare, in cui l'unica nota positiva è stata questa ora quotidiana che ho passato al microfono di Radio 24. Ma lo dico sinceramente, non avrei motivo per mentire né a me stesso né a quelli che mi ascoltano. Però vorrei fare questa mattina questo giochetto tristerrimo che fanno tutti i giornali, tutte le televisioni, tutte le radio, tutti i giornalisti del mondo, di fare un bilancio dell'anno passato. Ha poco senso, perché sono bilanci di solito si fanno precotti, già si comincia a farli verso settembre-ottobre, aggiornando poi gli ultimi dati. L'anno soggettivo è costellato da alcuni eventi individuali, i miei non ve li sto a dire, ma vi assicuro che ho ben d'onde per dire che è un anno da cancellare. Poi ci sono degli eventi di tipo sociale, condivisibili collettivamente, dei quali poi ce ne importa fino a un certo punto. I premi Nobel, i grandi eventi, anche, è brutto dirlo, ci sentiamo infami nel dirlo, anche le grandi disgrazie. Quando toccano gli altri, sì, ci colpiscono emotivamente finché le vediamo al telegiornale, le vediamo scritte, ma poi alla fine vengono dimenticate, diventano semplicemente dei puntini nelle pagine dei giornali che rievocano ciò che è accaduto nel 2010. Pensare che era un anno, sembrava tanto divertente, andato allegro, 2010, 2010, era bello, poi eravamo negli anni 10, se penso cosa siano stati gli anni 10 del secolo che ci ha preceduto, erano dei begli anni, allegri, danzanti, nulla a che fare con gli anni seguenti, gli anni della guerra, gli anni profondi, ma fino al 1910 perlomeno si poteva stare ben allegri e ben tranquilli. Beh, gli anni 10 non so se saranno ricordati dalla storia, ma questa mattina vorrei contare sul vostro aiuto. Questa è una bella mattinata, visto che ancora non avete messo le mani nel soffritto, nell'abbacchietto di Capodanno, possiamo questa mattina fare un punto. Il punto lo vorrei su questi due binari, sull'anno individuale, soggettivo, vissuto sulla vostra pelle, e quindi mi dite quello che vorreste buttare nel cassonetto, quello che vorreste buttare dalla finestra. Non è una tradizione che ancora è molto frequentata, ma si usava fino a qualche anno fa, ne è testimone un fantastico film di Fantozzi, buttare dalla finestra tutto ciò che era vecchio, tutto ciò di cui ci si voleva liberare. Sulla bianchina di Fantozzi buttarono infatti una lavatrice e la distrusse completamente. Girare per Roma anche soltanto una ventina d'anni fa, io già stavo in questa città, significava rischiare la vita. Tiravano di tutto, tazze del gabinetto, vecchie putrefatte, figli indegni, oggetti di ogni tipo. Usava buttare dalla finestra, in segno di allegria, in segno di gioia, in segno di leggerezza, ciò di cui ci si voleva disfare. Ecco, di cosa vi vorreste disfare simbolicamente attraverso questa sorta di rituale scaramantico? Cosa buttate alla finestra dell'anno che è passato? Intanto io vi aiuto, non potendo entrare nelle mie privatissime vicende, con quelli che sono gli eventi che secondo me potevano fare anche a meno di accadere, o perlomeno sono accaduti, ma di cui non ci ricorderemo in maniera così indelebile dell'anno che è passato. Fa caldo? Sì, troppo, cioè stiamo tipo a fare la colla. Fa troppo caldo, a me sta arrivando. Fammi qualche domanda. Te l'ho chiesto. Allora, come resisti al caldo? Che ne so, ma vado a fare la doccetta là, perché al mare dopo pizzica tutto. Fino a quando resisti? Un'oretta, ma neanche. Ti vieni a fare subito il bagno con la capaccia, ti viene l'insolazione. Hai preso da bere? Sì, mi sono piata il calippo. Tu? Io pure il calippo, poi siamo presa la birra. Ai ai ai ai, ai la ai, birra ai. Non va mica bene, negli alcolici, no? La birra ghiacciata. Vabbè, meglio di niente, dai, su. Fermare uno se deve divertirsi, se deve. Deborah e Romina, vedi so quelle de ostia. Un a caso, non perché abbia disprezzo per il quattume, le quatte mi stanno anche simpatico, tante amiche quatte, ho avuto tante amiche quatte. Il quattume rappresenta la vitalità ancora in una società che ormai è stratificata di modelli fotocopiati, sovrascritti, che non appartengono al proprio DNA, non appartengono alla propria struttura fisiologica, al proprio albero familiare, alla propria situazione incrocio territoriale. Bira e Calippo furono l'esito fortunato di un giornalista, Nicola Veschi, che a Sky TG24 un giorno, andando a fare quei servizi estivi che ti ci mandano a calci nel sedere per fare colore quando non ci sono notizie, quando nessuno ammazza nessuno perché sono tutti in vacanza, quando i palazzi dell'istituzione sono chiusi, quando non c'è niente da dire, vai a fare il colore. Andando domenica 18 luglio su Ostia, nel lungomare di Ostia, un lungomare anche lì di totale scenografia, un lungomare nel cui mare non ci si può tuffare perché sennò si esce scheletriti, quindi è un lungomare in cui va la gente, sente il caldo, si fa appunto la doccia come dicono le due ragazzine intervistate, e sta lì, fa passare il tempo, si abbronza, può andare la sera in discoteca con una reale tintarella, non quella fatta con il lettino a raggi uva. Intervista due ragazzine, Romina Olivi e Deborah Russo. Queste due ragazzine hanno la geniale escamotage, una volta mandato in onda, prima di mandare in onda questo servizio, di mettere i sottotitoli. Queste parlano un romanesco molto comprensibile in realtà, ma con una sorta di doppio salto mortale, di irrisione, di lettura trasversale del trash, fanno i sottotitoli. Diventa un cult su YouTube, immediatamente le due ragazzine diventano dei personaggi. Ecco, su Romina e Deborah e il loro Calippo e la loro biretta, per settimane e settimane si inanellò tutto un gioco di sottintesi, e anche qui si sottolineò una nostra nazionale tendenza ad osservare sempre gli aspetti orrifici, gli aspetti deleteri, gli aspetti grotteschi della società, riderci e scherzarci sopra, perché in fondo grazie a Romina Olivi e Deborah Russo tutti si sentono dei raffinatissimi intellettuali. Ha sofferto non tanto per quello che le hanno detto, perché essere una trans, voglio dire, non è né un'offesa né una calunnia. La vicenda potrebbe essere stata organizzata ad arte dall'agenzia di Roma della ragazza proprio per creare clamore. Insomma, in questi giorni si parla solo di lei. Allora, lei fa parte di quei giornalisti che, come questi qua che hanno messo in giro questo polverone, dicono delle cattiverie pur di guadagnare soldi. Prego inquadrare spettacolare décolleté della signorina. Allora, bene, complimenti. Messo istintivamente, così protettivamente, una mano sulla spalla di Silvia Vallone e ho sentito un fremito di emozione, ma ancora ci emozioniamo. Altri due episodi che hanno segnato quest'anno. Il primo è quello della transavanguardia, questa sorta di immissione radicale della transmania o della transtendenza che attraversa trasversalmente la nostra società. Vi ridò il numero 800240024, mai dovessi ricordarlo perché sarebbe ora cominciate anche a chiamare un po', perché sentite, mi sta cedendo la voce. Una delle caratteristiche individuali della sfiga di questo anno è stata la mia cagionevolissima salute vocale, che per me è come uno spaccapietre a cui si spezzano le dita. È come un podista a cui si spezzano le ginocchia. Avere problemi alla voce significa non portare più a casa il bollito da mettere in pentola, altra frase che è molto divertito ai miei ascoltatori. Dicevo, riguardo alla transmania e alla transavanguardia, naturalmente come ricaduta di alcune esasperazioni e pubbliche esternazioni di vizi privati anche di uomini eccelsi appartenenti ad alte cariche della pubblica amministrazione, il trans è diventato per un certo momento il personaggio o la personaggia, a seconda del punto di vista politicamente corretto che uno vuole avere nei confronti di questa realtà, principe di tutti i talk show televisivi italiani. Abbiamo visto trans ovunque, ubicunque passavano trans, ubicunque avevano possibilità di estrinsecare, raccontare, vedere. Tanto che, naturalmente, il marketing dell'indotto televisivo, che fa sì che qualcosa che galleggia nell'immaginario comune venga subito arpionato, diventi materia di trattazione televisiva, ha pensato bene di introdurre l'immaginario fittizio del trans, che è molto più facile che trovarne uno vero, anche in un concorso come quello di Miss Italia. E quindi Alessia Mancini è stata in una abilissima operazione di marketing fatta baluginare come una possibile trans. In realtà questo ha portato molta fortuna a questa ragazza, che mi pare che fosse umbra, quindi delle mie contrade, in cui poi la distinzione di genere è molto ben radicalizzata, perché gente che viene dalla campagna e quindi dice pane pane, vino al vino, e fa sì che questa signorina doveva andare in televisione a dimostrare, a inveire contro chi l'accusava di essere trans, dire io non sono trans ma in realtà ho tutte le cose a posto. E l'altro trans, trans de vie, che in realtà è un'altra cosa che abbiamo osservato, è la battuta provolonica di Bruno Vespa al premio Campiello, quando arriva la vincitrice Silvia Vallone, fa una battuta sacrestanesca sul suo décolleté. Boh, normale, ci stava, lei era tutta contenta, se non che un'altra partecipante, l'autrice di Accabadora, Michela Murgia, altrettanto stettuta, abbondantemente davanzalata, però più politicamente corretta, inveisce contro Vespa, dice cosa, come ti permetti di apprezzare una donna per le sue tette quando in realtà dovresti apprezzarla per la sua intelligenza, per il fatto che sta qui avendo scritto Acciaio, libro fantastico e favoloso, frutto di una grandissima operazione di marketing editoriale. Beh, a questo punto, visto una più voce, chiamo Marianna Aprile. Marianna, buongiorno. Ciao, ne ho anche meno di te. Marianna Aprile, mi supporterai questa mattina, data la tua fondamentale e radicale esperienza nel trattare l'attualità, nel capire quali sono le cose di questo anno, non che vorremmo buttare dalla finestra, ma le quali forse ci dimenticheremo molto facilmente, perché non meritano memoria più profonda. Marianna Aprile, che ho sempre presentato come giornalista di Novella 2000, oggi è giornalista di Oggi, quindi per te è stato un anno fondamentale di passaggio, di cambiamento, quindi sarei felice e contenta. Marianna, rispetto alle due o tre cose che ho lambito, sulla transmania è stato un tuo cavallo di battaglia, perché tu sei stata assidua e imperterga frequentatrice di Nathalie, di Brendone, di tutto quello che apparteneva. È una cifra distintiva di quest'anno, la transmania è una delle caratteristiche che possiamo appiccicare al 2010 passato? Transmania mi sembra un po' riduttivo, in realtà mi sembrava azzeccatissimo l'accostamento anche alla battuta di Vespa al Campiello, perché se dovessi trovare un filo conduttore del 2010 direi che è la sessualizzazione di qualsiasi cosa praticamente, cioè è stato l'anno forse diciamo sulla scia, sull'onda lunga degli scandali sessuali dell'estate 2009 e dell'autunno 2009 che hanno riguardato il premier e l'ex governatore del Lazio Piero Barrazzo, è stato l'anno in cui diciamo questa pioggia di riferimenti sessuali ha investito praticamente tutto, nel bene e nel male. Ma fino poi oggi, dura ancora fino ad oggi, tutte le supposizioni, le battaglie tra giornali, esatto. Libero che parla di nuovi scandali legati al presidente della Camera, presunti. Però posso dire, al di là del fatto che siano veri o finti, sono meno veraci, non so come dire. Cioè, di fronte a un escort che produce registrazioni di incontri o alle ragazze che descrivono scene eccetera, questa è una cosa più fumosa di per sé e più fumosa ancora nella misura in cui la signorina in questione dal giorno dopo l'uscita dell'articolo se contattata disponeva di ufficio stampa e responsabile comunicazione. Però questo è significativo, è tutto un portefatto. È significativo di una tendenza, però, Marianna, vedi che è ormai formattizzato anche l'episodio di escort che frequenta personaggio politico illustre e prepara il suo dossier, è già pronta una serie di testate giornalistiche pro o contro, pronta ad accogliere e comunque o come ha fatto Libero dicendo lo diciamo per salvaguardare perché si possa difendere, o come dicono altri la macchina del fango che si muove, comunque sia diciamo l'allusione passeracea è diventata uno degli elementi fondamentali della trattazione giornalistica e anche a me dei cascami di ciò che dovrebbe essere chiamato, almeno con termini molto desueti, politica. sì, però c'è anche un, o spero ci sia, insomma io ce lo vedo, un rovescio della medaglia, perché tutto questo parlare di allusioni appunto passerace, come le chiami tu, c'è stato anche in quest'anno un lungo momento di riflessione sul corpo delle donne, sulla l'immagine della donna che viene fuori da tutte queste vicende di cronaca, di politica, di attualità, di stracci che volano tra uomini. Alla fine dal documentario della Lorella Zanardo in poi, a tutte le lucubrazioni anche molto, come dire, noiose, posso dirlo, da donna, sfondi porte aperte, sono state fatte sull'argomento, però di fatto se ne parla e non se n'era parlato prima, se non in termini di corpi, per l'appunto. Poi, per carità, cioè, sono tutte riflessioni che rimarranno nel 2010 probabilmente. Però, guarda, non a caso Marianna questo anno chiude con le foto, oggi a piena pagina su tutti i giornali, della morte, ahimè, fatale, della modella anoressica che immortalò Toscani, che fu oggetto di grande scandalo, anche lì tutto il perbenismo pubblicitario disse è brutto far vedere questa immagine, ma questa ragazza accettò di farsi vedere nella sua situazione scheletrita. Perché? Perché ci sono l'esito comunque di un'esasperazione di attenzione al corpo della donna, che non è più donna, diventa stampella per abiti di alta moda, oppure qualcosa che comunque non ha più una sua vitalità. No, no, guarda, è paradossale ed è cinico, come dire, legare probabilmente le questioni, però diciamo che dal punto di vista simbolico l'epilogo non poteva essere... Guarda, abbiamo aperto con le tette gonfiate, le labbra gonfiate delle escort e dei trans di palazzo, e abbiamo chiuso con lo scheletro vivente che poi alla fine muore, si estingue. In fondo c'è una parabola legata al corpo della donna che segna questo anno, ci ha preso in pieno. Sentiamo qualche ascoltatore. Loris, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori. Niente, io faccio solo una brevissima riflessione per arrivare al punto di quello che butterei quest'anno. Qualche non tantissimo tempo fa, praticare il mestiere più antico del mondo era oggetto di una leggera vergogna da parte di chi lo praticava, in un senso o nell'altro, cioè per bisogno o per lussuria, diciamo. Sta di fatto che oggi invece sembra un vanto, no? Pertanto, appunto, il discorso che abbiamo fatto, facevate prima, delle escort che riprendono con i telefonini, e della voracità dell'italiano medio di andare a vedere cosa accade con Tizio, con Caio, insieme a Gina, Pina, Lina, eccetera, eccetera. Quindi butterei quello che è questa immagine di sessuofaghi o sessuofagi, non so se il termine pensato al volo sia quale sia il più corretto, proprio perché secondo me siamo come italiani un'altra cosa, noi siamo gli italiani probabilmente un po' più romantici, e questo bombardamento di immagine del corpo della donna utilizzato nelle cose più disparate e più assurde, dall'acqua minerale al sapone intimo, per pubblicizzare appunto le varie cose, penso sia una forzatura di cui farei, ma non penso io, volentieri a meno. Oddio. Sul sapone intimo non si possono vedere le orecchie, il sapone intimo è per le zone intime, quindi bisogna richiamare l'area che interessa. Però in generale lei ha ragione, anche se io ho una visione un po' diversa. È vero che si è molto... l'Italia sembra trasformata in una sorta di puttanopoli, ma il fatto che dice lei... il calo della vergogna rispetto al mestiere della prostituta, secondo me, è derivato da un infame slittamento lessicale. Il fatto che oggi si dica escort, che è un termine carino, ricorda un po' un'automobile d'antan, è pulito. Una volta si diceva prostituta, passeggiatrice, puttana, peggio ancora, era qualcosa che feriva. Oggi dire escort sembra quasi una cosa figa. Cosa fai l'escort? Quindi cosa significa? L'accompagnatrice, quindi una persona raffinata, quasi una geisha degli anni 2000, però totalmente deprivata degli aspetti di mercimonio sessuale, quando in realtà come sempre l'eufemismo non assolve poi la reale forza dell'oggetto di cui si parla. Sentiamo Antonio. Buongiorno Nicoletti. Ecco, buongiorno. Qua. Allora, Loris ha voluto buttare via tutto ciò che è l'esasperazione ipersessuata del nostro paese. Lei invece cosa? No, io vabbè, prima butto via una piccolissima cosa, non me ne voglia, però la sua frase, visto che chiamo da Roma vivo ad Ostia, che si esce scheletriti, come ha detto, dal mare di Ostia, la butto via. No, perché invece comune. No, no, invece no. Beh, no, perché no? Si fanno... No, no, io amo molto il paradosso. È una banalità, Nicoletti, è un luogo comune ormai veramente... Ma scusi adesso, guardi, io non voglio, non ho nulla contro il mare di Ostia, figuriamoci, però onestamente che il litorale romano sia stato un grande sconcio, che era un mare che fino a 50 anni fa assomigliava a delle coste fantastiche, è stato fatto uno sconcio, questo vogliamo darne atto. È uno sconcio per mille motivi, ma non ma mica dico colpa sua, colpa civile. No, io pensavo che lei dicesse l'acqua, siccome l'acqua secondo me è assolutamente pulita. L'acqua è pulita, beh, questa è una bella notizia. Ma è uno sconcio per mille altri motivi, ma questo è un luogo comune veramente, perché sono più di vari depuratori che ormai da qualche anno rendono l'acqua pulita. Poi è uno sconcio per mille altri motivi, perché non si può entrare in spiaggia, insomma, per tanti altri motivi. Quindi lei dice che si fa tranquillamente, spinge i luoghi comuni, io mi permetto. No, ma lei fa, se lei è più informato di me, fa bene. Si può fare tutto tranquillamente qua. Il bagno per sulla il spiaggia della città. No, ma si fa tranquillamente il bagno. No, ci dia questa notizia, mi fa piacere. No, assolutamente, è una cosa ormai veramente una banalità degli anni 60, non è così. Poi, insomma, oddio, anni 60, fino a una decina d'anni fa risultava sì, che sì, non fosse forse, sì, certo, 20, sì, però ecco, questo vale per Fregene, per tutti i luoghi, diciamo, del mare intorno a Roma, perché io vedo che la gente va al mare e non fa il bagno. I depuratori funzionano, ecco, chi più che meno, però questo territorio paga questa immagine orrenda. Poi mettiamoci pure un calippo, una birra ogni anno, qualche motivo per giustamente Ostia, difende la sua zona. La io dico, coatti, però guardi, su coatti ho un grande rispetto, io mica lo dico con disparo. Io ho molto da imparare dai coatti, figuriamoci. Però sarebbe bello anche avere altre immagini, no, in alternativa, ecco, perché non, sì, credo non è che sia un granché bello a vedere il lungomare di Ostia. Adesso non ci prendiamo, mica dico colpa sua. Sono dei luoghi in cui ahimè perché l'hanno devastato. La terribile caduta del gusto e dell'attenzione per il paesaggio che avvenne nel nostro dopoguerra ha lasciato segni profondi, mica dico è colpa di chi ci abita. A un certo punto, quando noi siamo cominciati a rinascere dopo la guerra e gli orrori della guerra, questa euforia del costruire, molti hanno speculato fortemente senza curarsi delle ferite indelebili sfacciando al paesaggio italiano. Quelle erano zone meravigliose, pinete, una spiaggia simile alle spiagge di come erano in Jugoslavia prima, diciamo, della caduta del comunismo, ci si andava e sembrava di vedere un posto paradisiaco, che era uguale a quest'altra parte, non è che cambiava molto. E com'è diventata, hanno costruito grattacieli a pochi metri dalla spiaggia, capisce? Questo è il vero problema. Comunque andiamo al punto, assolta Ostia della sua possibilità di essere balneabile. No, non sono un balneare, anzi non è che mi siano molto simpatico. E cosa vorrebbe buttare via? Ecco, no, secondo me quest'anno è stata proprio la consacrazione, cioè non so come dire, la fine proprio del rapporto tra la politica e i cittadini, in tutte le sue rappresentanze, in tutte le sue speranze, ma non parlo degli ideali del passato, no? Parlo anche dei partiti, movimenti che erano nati negli ultimi anni. Ecco, quest'anno ha dimostrato, con tutte le vicende che abbiamo letto, che c'è un'oligarchia totale, trasversale, che fa quello che vuole, e soprattutto purtroppo che i cittadini ormai non hanno alcuna reazione, no? Cioè, quindi diciamo, se vogliamo sintetizzarla, è la caduta di una sorta di idea alta della politica. La politica è diventata qualcosa di diverso da quello che una volta si considerava, con tutti i limiti che potevano avere. Comunque era un passo avanti rispetto al comune muoversi della società. Quindi i cittadini sono assolti rispetto alla politica che ha tradito le attese dei cittadini, o la politica assomiglia sempre di più a quelli che sono gli aspetti genetici del paese, secondo lei? Chiunque, secondo me, ha un motivo per essere deluso dal proprio, no, rappresentante, dalla propria formazione, cioè molto più degli anni precedenti, e non credo ci sia alcuna prospettiva che possa far ripartire. No? Vabbè, intanto, questo sono, diciamo, siamo sempre speranzosi che possa cambiare in meglio. Comunque ha espresso finora i due episodi che sono venuti più sottolineati ai nostri ascoltatori, sono l'ipersessualizzazione e la caduta radicale di un concetto alto di politica. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della Borsa. On s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. L'outing entusiasta di Morgan sull'uso terapeutico del crack ha avuto le sue conseguenze, l'esclusione del cantautore dal Festival di Sanremo. Io sono passato attraverso esperienza di tossicodipendenza dalla quale mi sono curato. Un principe, un cantante conduttore e un tenore. Tre mondi diversi, uniti da un filo comune, una dichiarazione d'amore all'Italia che ha spaccato l'opinione pubblica. Pupo Emanuele Filiberto e il tenore Luca Canonici. Italia, amore mio. Io credo sempre nel futuro. Dio mi sta punendo per quello che ho osato dire questa mattina. Stanno arrivando telefonate inviperite di difensori della balneabilità del Lido di Ostia, ma benissimo. Do atto che Ostia c'è un mare cristallino, un mare limpido in cui tutti possono fare il bagno, persino bere l'acqua. Se siete contenti così, a me sta bene, non ho nessun pregiudizio, nessuna prevenzione. 800240024, questa mattina stiamo parlando di ciò che butteremo dalla finestra dell'anno che è passato. Ciò che butteremo naturalmente come male comune, male condivisibile, oggettivamente oggetto di orrore. I vostri fatti privati, se volete raccontateli, noi siamo molto attenti e molto curiosi dei fatti altrui, però in realtà ci interessa più di ragionare su quello che appartiene all'esperienza comune. Devo dire, questi due punti che abbiamo accennato sono favolosi. Primo, Morgan, il poeta maledetto, l'uomo bruciato dalle esperienze estreme, colui che ebbe il coraggio di dichiarare l'uso indiscriminato di droghe potentissime, che fu per questo espulso da Sanremo, che poi alla fine dell'anno si appella al Presidente della Repubblica, capito? Come fosse un qualsiasi disoccupato, pensionato, bistrattato, povero boy scout, capito? Bellissima questa cosa che a un certo punto gli eroi della trasgressione alla fine vanno lì e chiedono al Presidente: occupati di me, ridammi mia figlia, e cose del genere, sacrosanto, senz'altro. E poi il più fulgido esempio di amore patria, la canzone di Emanuele Filiberto, Pupo e del tenore di cui nessuno si ricorda naturalmente, mi sono dimenticato il cognome a distanza di 30 secondi, però di fronte a cotanta illustre fama chiunque sarebbe stato appannato. Italia amore mio, il Festival di Sanremo, una cosa terrificante, la protesta dell'orchestra che butta gli spartiti, gli fischiano a palco aperto, e questo pupattolone che ci fa benedire ogni giorno e accendere il lumino ai nostri santi protettori per quel referendum che ha scelto la Repubblica con tutti i suoi limiti, comunque ci ha preservato dal fatto di essere oggi governati da questo ragazzo che però ha una grande fortuna televisiva, è diventato un personaggio chiave della televisione. Abbiamo al telefono Marianna Aprile, amica giornalista callipigia, oggi firma di oggi, che ci aiuta a seguire questo percorso negli orrori dell'anno passato. Marianna, aggiungi un tuo contributo perché io non ho più voce. Guarda, io intanto comincio col dire che se l'Italia l'avesse amata davvero le avrebbero risparmiato quella canzone, il Pupo, il Principe e Luca Canonici, il tenore. Ah, Luca Canonici, ecco. Ero a Sanremo in quei giorni del festival e oggettivamente ci si dava vicendevolmente in sala stampa dei gran pizzicotti per convincerci che davvero stavamo vedendo quello che passava Rai 1, cioè uno scempio vero non solo dal punto di vista musicale, perché cioè, per carità, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma la canzone era oggettivamente brutta e i tre oggettivamente impresentabili. Ma quello che più fece scandalo in quel febbraio sanremese fu la presenza di Lippi sul palco insieme ai tre, cioè l'allenatore della nazionale che si presta a Italia amore mio fu veramente, credo, il punto più lacerante di quel festival. Sai, io conosco un po' i miei polli, ho frequentato da molto tempo quell'azienda, io suppongo che l'ordine scuderia che arrivava dall'altro era quello: quest'anno dobbiamo dare un'immagine positiva del paese. Dare un'immagine positiva del paese nei loro parametri socioculturali significava fare quell'operazione, mettere in bocca a Pupo quel piagnisteo, tu povero ragazzo che conoscesti l'esilio, ti ricordi? Le parole erano ancora sì, peggio. Come no, c'era un riferimento esplicito all'esilio del capito. Bambino Emanuele Filiberto lo vedevi con gli occhioni lucidi al di là del confine, con le guardie cattive che incrociavano gli archibugi, che sognava l'Italia, capito? Ma dei nostri occhioni lucidi non gliene frega niente a nessuno nel vederlo tornare. Beh, i tuoi probabilmente avranno degli estimatori, non lo so. Ma sì, qualcuno sì, non Emanuele Filiberto, no, però riguardo al suo successo televisivo io direi che veramente, cioè, perché poi non Beh, però è ovunque, continua ad essere ovunque. Sì, certo, la reduce dal successo di Ballando con le Stelle, il trionfo sanremese, adesso sembra il jolly che chiunque faccia una trasmissione in Rai vuole giocare, il Mediaset vuole giocarsi, il papà, insomma, è papabile per, come inviato dell'Isola dei Famosi, insomma, stanno ecco, cercando secondo te come mai tu che sei molto al dentro a queste cose, è un buon agente, perché funziona? Sentire tutti migliori, diciamolo, cioè nel senso noi lo vediamo alla prima puntata di Ballando con le Stelle che non sa sompettare e poi miracolosamente insomma si presenta con la sua principesca moglie e balla questo elegantissimo valzer, non mi ricordo cosa fosse, va a Sanremo e tra le polemiche, tra le cose, con un po' di ironia, un po' di faccia tosta, perché quella non manca, riesce comunque a sfangarla senza, cioè dividendo, ma senza farsi tirare i pomodori. Va in televisione un po' perché ci scherza su lui per primo, un po', cioè è il, diciamo, la medietà che conquista la ribalta, cioè, è una sorta di Luca Giurato per l'umanità, lui non so chi possa essere, sai, è una sorta di Luca Giurato più giovane e più bellino da vedere, probabilmente gioca sugli stessi sensi di tenerezza, capito? In fondo uno ha sempre un po' più di tenerezza per l'amico più svantaggiato, cioè, il figlio un po' Giurato più Giurato alla fine, cioè, si è creato un personaggio a fine carriera, prima tutto sommato aveva come dire, speso una professionalità che gli è stato dato modo di spendere, ha viaggiato, ha conosciuto uno anche molto curioso, cioè l'Emanuele Filiberto, a parte l'essere Emanuele Filiberto, non ha speso poi chissà che quale altro talento, insomma, no? Cioè, sarai d'accordo su questo? Sì, sì, ma però capisci, dietro di lui vedi Vittorio Emanuele II con i baffoni, re Sciaboletta, il re d'Aprile, vedi tutti i Savoia, il Risorgimento, cioè c'ha una coda pesante dietro, capito? Sì, ma mi preoccupa più quello che ha davanti, però te lo posso dire, cioè, nel senso che ognuno ha le sue preoccupazioni, molto... a me non preoccupa no, nel affatto. Senso non spero non lui ancora troppo il fenomeno, perché veramente, ripeto, è un inno alla medietà, alla... Però la televisione di questo vive, lo sai. Okay. Sì, però ritornando al discorso che faceva l'ascoltatore, il primo dei due ascoltatori che sono intervenuti prima, cioè riguardo alla delusione, no, per la classe politica, ognuno di noi, di qualunque schieramento, ha un motivo per lamentarsi. Io continuo a ritenere che noi siamo molto migliori di chi ci rappresenta nei palazzi e in televisione, e in modi diversi sia la delusione sul côté politico, sia, diciamo, lo scoramento per il successo di personaggi televisivi come Emanuele Filiberto, hanno un unico filo conduttore, cioè che noi un pochino meglio alla fine siamo, cioè che non ci viene riconosciuto, però lo siamo. Lo sai, non vorrei sembrarti pessimista, quando noi diciamo noi, io che parlo a questo microfono, tu che scrivi sui giornali, abbiamo un'idea però un po' limitata di quello che sia il vero spessore della società generalizzata. Parliamo di noi, dei nostri colleghi, dei nostri amici, di quelli che frequentiamo, di quelli che vediamo. Il paese è un pochino più vasto, secondo me. Questa è la mia idea. No, cioè io spero tu non cada nell'equivoco. Cioè tu sei il primo, per il tipo di lavoro che fai e per come lo fai, a nutrirti della gente che è intorno. Cioè, sì, questo è vero. Non è che stiamo chiusi, cioè sì, ci vorrebbero chiusi in una redazione, cioè, ma in realtà noi la metropolitana la prendiamo, al bar ci andiamo, in piazza ci andiamo, al cinema ci andiamo, le persone le ascoltiamo, se no non potremmo fare questo lavoro. E io sono convinta di quello che ti ho appena detto proprio alla luce di quello che ascolto per strada. Cioè senti delle micro storie meravigliose, poi non è che uno debba necessariamente spendere chissà quale talento irreplicabile, cioè noi siamo migliori anche solo moralmente di quello che ci viene propinato. Vabbè, allora mi voglio nutrire di Loredana. Loredana, buongiorno. Buongiorno. Mi nutra. Io anch'io sono d'accordissimo con la giornalista che ha appena parlato, butterei via molta di questa politica che non aiuta per niente i giovani, gli anziani. Non si interessa dei problemi che veramente il paese ha. Vabbè, andiamo al più specifico. Questo va bene, questo potrebbe andare bene in qualunque momento, sì, in qualunque, certo, paese. Troviamo qualcosa però di specifico di questo anno. La politica l'abbiamo già detto, passiamo, sì. Non perché voglia non parlarne, sennò parliamo solo della politica. È stato già detto che uno dei grandi punti di caduta è la profonda delusione della classe politica. Sì. Non entro poi in merito a leggi, decisioni, è l'aspetto esteriore, ciò che è venuto fuori, le piccole risse su fatti personali. Questo che è un pochino... La caduta di uno stile della politica. Poi ognuno può entrare nello specifico, vedere poi nelle fattispecie. Andiamo, facciamo un passo avanti. Poi dica un'altra cosa legata a questo anno. Beh, intanto io rimango sempre sul fatto della carenza di lavoro sempre per i giovani, gli anziani che devono arrabattarsi, gente che diventa sempre più povera, che non riesce più a arrivare. Sì, ma di specifico, va bene, questo. Beh, io di specifico potrei parlare un di episodio. Mia figlia, per esempio, che ha 35 anni è ancora diciamo alla ricerca di un lavoro definitivo, perché dopo 3 anni di lavoro in un'azienda non le hanno rinnovato un contratto quindi il precariato, fatto. L'idea del precariato. Precariato, esatto, perché questi ragazzi lei si è dato da fare e tutto quanto. Ora la ragazzi, va per i 40 sua figlia, diciamo, 36 quasi, quindi ragazzi, cioè fra un po'. Sì, comunque sono 15 anni che lavora, 15 anni che lavora con contratti a termine. Sì, sì, ma non dovrebbe essere più un problema della mamma, onestamente. No, certo. Dovesse sua figlia chiamare e dire io ho questo problema. In ufficio probabilmente in questo momento non può. No, no, per dire, noto comunque un'altra fattispecie, che ci sono mamme e papà che comunque hanno a cuore il destino dei figli quando mai dovrebbero essere già produttori di nipoti, tutt'al più, capito? 36 anni sono tanti, per cui la mamma si ponga il problema, lo dico onestamente, non, senza farne una colpa a lei, senza assolvere nessuno, però sentire una mamma che parla di una povera figlia che ha 36 anni mi fa pensare che sì, è vero, ci sarà il problema del lavoro, ma ce ne sono anche tanti altri. Marianna, cosa ne dici? Ma io mi volevo riagganciare a quello che stavate dicendo per proporti un'altra cosa da buttare via di questo 2010, legata sia all'affare Morgan Sanremo che citavate all'inizio di questo secondo segmento, sia degli episodi recenti. Cioè, l'ipocrisia quest'anno l'ha fatta da padrone. Il chiamare escort le signorine che prima si chiamavano in un altro modo, l'escludere Morgan da Sanremo per un legame anche solo emotivo con anche Belen, adesso postarti simpatico o antipatica, esatto, anche il caso, esatto. Belen è emblematico, poveraccia. Il caso Belen, cioè lei, per carità, distinguiamo bene tra apologia, che è quella che aveva fatto, certo. Morgan, poi smentita, per carità, però l'apologia del crack, distinguiamolo dalla curiosità che una ventenne può aver trovato in discoteca, dice lei due volte, noi siamo tenuti a crederle, però non dimentichiamoci che sulle due vallette di sanremesi di quest'anno, due su due sono in odore, per usare un giro di parole, di trascorsi legati alla cocaina, perché dalla stessa inchiesta da cui emerse l'ammissione di Belen in odore di annusamento, diciamo, va, in odore di annusamento, un gran polverone, verrebbe da dire, cioè, perché anche ci fu questa testimonianza di questa modella francese che parlò di una cena in cui anche la Canalis, disse lei, ebbe a provare l'esperienza della cocaina. Poi, per carità, la Canalis su questo non ha mai aperto bocca, non ha mai né confermato né smentito, però sta di fatto che se di onde lunghe dobbiamo vivere, avremmo dovuto anche beneficiare dell'onda lunga dello scandalo droga Sanremo, cioè trovo che sia un... E poi vabbè, poi il massimo lo si è raggiunto questa settimana a livello di ipocrisia, proprio a chiudere l'anno. La questione bestemmia Grande Fratello, direi che la fa abbastanza, sì, da padrone. Finalmente hanno assolto un bestemmiatore del Grande Fratello. No, ma non è la prima volta. Se abbiamo buona memoria, sappiamo che già quest'estate ci venne detto che le bestemmie vanno contestualizzate, cioè se uno le pronuncia o in una barzelletta o in un reality si possono pronunciare. Però il precedente bestemmiatore, sì, fu espulso da Grande Fratello, ma era presente in studio in tutte le trasmissioni collaterali, quindi alla fine... E adesso è ritornato alla ribalta grazie a un altro... Come la Ferrari, vuole essere reintegrato nel suo ruolo, perché dice bestemmia, bestemmia. Ci fermiamo solo un istante, Marianna, per dare la linea all'informazione del traffico, poi continuiamo su questo succoso tema. Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il cadavere di Elisa Claps sarebbe stato scoperto nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza alcuni mesi prima del ritrovamento ufficiale avvenuto il 17 marzo scorso. Avvocato, allora le voglio dire questo, la notizia è terribile, cioè noi stiamo dando una notizia terribile con grandissimo imbarazzo, perché si sta parlando dell'uccisione di Sara Concetta e purtroppo addirittura da parte... C'ho Concetta qua... qui di fianco. No, è chiaro, no, dico io, infatti mi rivolgevo a Concetta. Concetta, qui c'è il quotidiano di Puglia che dice che lo zio avrebbe confessato. Improvvisa svolta nel giallo di Avetrana, Sara Scazzi sarebbe stata uccisa in questi minuti, i carabinieri stanno cercando il corpo 800240024 tra le cose che cercheremo perlomeno di rimuovere dell'anno passato, non possiamo fare a meno di evitare questo filone truculento, televisivo, sanguinolento, dei grandi delitti. L'Italia delle villette ha avuto la sua apoteosi, a cominciare da quest'estate, con la vicenda Sara Scazzi, poi con il paragone tra Sara di Avetrana e Yara di Brembate, le due ragazze, le due differenze. Sembra che a questo punto le antitesi del nostro paese sono definite tra una popolazione complice della televisione nell'essere protagonisti di un delitto irrisolubile che comunque interessa una famiglia che al di là dell'aspetto esteriore di compattezza, di alacrità, nasconde chissà quali terrificanti gorghi di turpitudine, e la compatta cattolicissima famiglia bergamasca che si astiene come se fosse in una veglia pasquale da ogni lussura televisiva, tace però dopo tanti giorni che la ragazzina scomparsa di cui non si hanno notizie, scrive anche lei una lettera, anche i genitori di Yara fanno un appello generale, però lo fanno con una lettera scritta a mano in stampatello, mantenendo questa sorta di austerità quasi sacrale. Abbiamo Marianna Aprile, collega di oggi, che insieme a noi cerca di tracciare un punto sulle vicende di quest'anno che vorremmo dimenticare. Pregherei gli ascoltatori di specificare qualcosa di più particolare, perché continuate a scrivermi il lavoro che manca, i giornalisti che non fanno le domande giuste. Sì, ma che si sono mali che ci porteremo dietro ancora chissà per quanti anni, e di cui abbiamo vasto retaggio anche negli anni precedenti al 2010. Marianna Aprile. A proposito dei giornalisti e delle vicende che citavi, direi che in quest'anno possiamo serenamente, spero che lo facciamo tutti, lasciare una deriva reality del giornalismo. Cioè, il caso di Avetrana ci ha tirato fuori il peggio che potesse essere tirato fuori da questa professione che vorrebbe e dovrebbe essere una nobile professione. Cioè, noi dovremmo essere, come dire, gli occhi e le orecchie di chi ci legge e di chi ci ascolta, e siamo diventati invece un enorme lente di ingrandimento con tanto di riflettori che avevano il solo scopo di alterare e amplificare una realtà che già di per sé era agghiacciante. Il caso di Brembate si è molto fatto il paragone, no, tra i due casi, le due ragazze, si sono scomodati anche i più lisi stereotipi tra l'essere famiglia del sud e l'essere famiglia delle valli. L'una aveva soltanto 12 numeri sul suo cellulare, l'altra addirittura aveva tre profili di Facebook. Abbiamo dato, come dire, saggi su saggi di qualunquismo e stereotipi. Quello che spero che rimanga in quest'anno e che si esaurisca col 2010 è proprio questa esagerazione. Credo che su Brembate, complice anche la grande normalità e la grande dignità della famiglia di Yara, quello che si può dire su Brembate appunto è che è stato un po' uno schiaffo in pieno viso a un certo tipo di giornalismo che aveva potuto sguazzare sulla storia di Sara, sulla Avetrana. Ci hanno un po' riportato con i piedi per terra, e anche solo per questi andrebbero rispettati. Ecco, io faccio un passo laterale rispetto a quello che dici te. Rispetto al tuo punto di vista sono lievemente più laico. Io non trovo nessun orrore nel raccontare fatti orribili. Dico, in realtà i giornalisti non hanno dato notizie. Hanno tradito la loro funzione perché non davano notizie, perché diluivano qualcosa in cui non accadeva mai nulla. È stato illuso l'ascoltatore che ci fossero notizie quando notizie non c'erano. Non abbiamo nulla oggi. È riassumibile la vicenda di Avetrana in tre parole. Di più non c'è niente, non c'è una certezza. Ecco, non abbiamo avuto la possibilità di scindere, che è il mestiere del giornalista, fra ciò che è certo, provato, con fonti sicure, fino a cui ci siamo arrivati, e ciò che in realtà appartiene al mondo dell'illazione, della supposizione. Abbiamo dato corpo alle illazioni. Questo è l'aspetto deleterio della professione, la deriva deleteria della professione. Dare spazio all'illazione come se fosse una realtà. Questa forse è la cosa, secondo me, più pericolosa. Bianca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buon fine anno e buon inizio d'anno. Spenga la radio per cortesia, Bianca. Bianca, spenga la radio che c'è un eco fastidiosa. Va benissimo. Ok. Allora, io ho ascoltato tutta la trasmissione, ho sentito quella bravissima signora, una giornalista che interviene con lei. Condivido, sì, partendo dal presupposto che condivido ogni parola. È anche fantasticamente bella, prego. Diciamo l'introduzione di questa signora e non solo, tutto quello che ha detto per me va benissimo. È una signorina e non è sposata. Beh, sì, no, non significa nulla, sposata. No, lo dico per correttezza deontologica, per la biografia, sì, esatto. Uguale. Non andiamo a stupidaggini, comunque in ogni caso condivido, fosse stato un uomo avrei detto la stessa cosa, per me è uguale. Quando uno è un giornalista, e l'avete detto anche voi, è un giornalista, deve riprodurre le notizie per quelle che sono, giusto? Certo. Commenti o non commenti, oppure parte o non parte da una, cioè che sia di una cosa o dell'altra, dovrebbe essere, penso che sia per voi, secondo me, una delle professioni più belle che possono essere paragonabili, secondo me, a un direttore d'orchestra. Pensi lei cosa le dico? Ci fa onore, sì, sono molto grato. Guardi, però deve capire, lo dico, guardi, io sono il meno adatto a difendere l'aspetto tecnico della professione, non frequento nessuno, non frequento gli organismi, non vado mai, non voto mai, quando mi chiamano i colleghi votiamo, non mi importa molto, ho pieno rispetto per tutte le istituzioni, compreso l'ordine dei giornalisti, però secondo me è giusto quello che dice lei, però non dimentichi che il giornalista deve avere anche il dovere diritto, esplicitandolo e facendo capire la differenza, anche di esprimere una parte di propria visione, proprio potere. È un'illusione pensare che il lavoro del giornalista sia un lavoro così freddo, asettico e possa riferire soltanto la realtà in termini oggettivi. La realtà filtra attraverso noi. Il mio punto di vista mi sembra molte volte sia chiaro, lo esplicito, non lo faccio mai passare per una realtà oggettiva da condividere necessariamente. Questa è un po' la lieve differenza. Grazie comunque, Bianca. Mario. Buongiorno. Eccomi. Pronto? Sì. Pronto, mi sente? Certo. Buongiorno. Senta, io ascolto, sono un imprenditore e in particolare sono un agente di commercio, vivo in macchina e ascolto con molta attenzione le vostre trasmissioni perché obiettivamente Radio 24 trasmette un programma di qualità. Vengo però colpito come, capisco che ormai faccia molto audience, la volgarità, le parolacce, tutto il resto. No, non è che fa necessariamente molto audience. Ma mi creda, guardi, io faccio molta attenzione a quello che guardo, sento, leggo, almeno cerco di farlo perché mi piace cercare di capire le varie situazioni. Mm. Mi pare che da qualche anno, a cominciare da forse Sgarbi, che è stato un precursore di questo modo di comunicare. È la sua cifra stilistica, l'invettiva, quello è un altro discorso. È un personaggio che ha scelto l'invettiva come strumento artistico per esprimersi. Ma il colorire il tutto con queste forme di parolacce, tenga presente, io non sono un puritano, sono una persona che ne vede di tutti i colori, però mi viene poi molto difficile argomentare con mio figlio quando dobbiamo vedere la TV o ascoltare la radio il fatto che non debba usare certi termini. Infatti ieri mi ha fatto morire da ridere Calderoli in una battuta che ha fatto in TV, che ha detto: io se parlavo di casini a casa mi davano scappellotti. Sì, ma cioè, sai cosa succede a casa mia? Esattamente il contrario. Mio figlio, che ha 15 anni, mi riprende, dice: papà, non si dice questa cosa, non dire parolacce. Ho dei figli puritani rispetto al mio essere umbro. Io, sa, umbro confinante con la Toscana. La parolaccia fa parte del mio humus vitale, però non mi sembra di essere volgare. Mi prendo tutte le accuse. Ma non è riferito a lei. Sì, ho detto puttana prima. Però è vero, ha ragione. Però come la definisce una signora che si prostituisce? Quello è il termine. Voglio dire, aveva un termine antico quanto il suo mestiere. Adesso la vogliamo chiamare escort, la vogliamo chiamare, la possiamo anche chiamare escort. Sì, non è che l'escort fa lo sconto rispetto alla puttana, no, è sempre quello. Assolutamente. Anzi, comunque abbiamo capito, Mario, perché voglio far concludere a Marianna Aprile che è in ascolto. Uno dei punti che lei indica come negativi è lo slittamento del lessico verso la volgarità. Marianna, una battuta e così chiudiamo. E ci facciamo devo l'augurio. Essere volgare? No, non devi essere, non, sarebbe impossibile per te. No, tenderei a osservare che la volgarità non è tanto più solo nel modo di parlare, ma una volgarità proprio nel modo di vivere. Abbiamo esempi quotidiani di volgarità anche silenziosa. Non c'è bisogno di chiamare puttana lesco per essere volgare. Benissimo, grazie Marianna, grazie agli ascoltatori, grazie a tutti coloro che hanno vagamente definito gli aspetti deleteri dell'anno passato, sperando che il migliore ne sia privato. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.